costruivano gli aquiloni. Nonna, amor d'infanzia, occhi trasparenti che facevano volare il mio cuore. Destre le tue dita, acuto e severo lo sguardo, che l'impietoso tempo aveva velato di già. Si costruivano gli aquiloni assieme tu ed io, le cose più inusuali ci donavano felicità. Si costruivano gli aquiloni assieme. Costruivano gli aquiloni e intanto io crescevo. Bada bambina mia, stai attenta a quello che fai. Poi un giorno mi dicesti, ti ho aiutata a nascere un dì. Ed ora io ti prego, a partire aiutami tu. Si costruivano gli aquiloni assieme tu ed io, le cose più inusuali ci donavano felicità. Si costruivano gli aquiloni assieme tu ed io, con facciamolo.